E siamo all'appuntamento con il cinema Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta e tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, e per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica e visionari@ondarossa.info. Prima ospite della settimana è la coregista Stefania Orsola Garello per parlarci del documentario Nuddu. Stefania, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Che piacere incontrarvi, piacere mio assolutamente. È stato un piacere vedere il tuo documentario, ho preso contatti, quindi siamo qui a parlarne. Lo racconti a chi ci sta ascoltando? Ma guarda, brevemente, è difficile, ma comunque è un documentario che in realtà è un po' video arte, è un concetto artistico che è stato diciamo lo sviluppo di un'idea di Odissea che ho realizzato con i ristretti del carcere di Favignana, dove io vivo, e diciamo è il frutto di un lungo percorso, prima di dialogo e laboratori fatto in volontariato, poi a progetto abbiamo dato vita a questa improvvisazione sulla poesia e sulle tematiche dell'Odissea che per me sono assolutamente la metafora della vita di molti di noi e soprattutto delle persone che, essendo stolti, violano le leggi degli dèi, no? E quindi cascano in mille perigli. Però in mezzo a questi stolti c'è anche Ulisse, quindi comandante e naviganti sono tutte e due alle prese con le scelte della vita. Questo è un po' il concetto che ho sviluppato con loro. Okay. E l'ho portato in scena. Com'è partito tutto? Da dove è partito tutto? Partito da me, che vivo su quell'isola e essendo un artista che si chiede sempre che senso ha quello che facciamo, sono un po' contraria a questi tempi un po' arroganti, un po' egoistici, la mia tendenza a voler fare del mio mestiere un messaggio mi ha portato a chiedere di entrare là, perché io vivo là e là c'è questa realtà, e quindi mi hanno fatto entrare e ho sperimentato una volontà di linguaggio e mi sono trovata benissimo insieme a questi compagni di viaggio meravigliosi che cambiavano in continuazione, perché è un percorso che è durato 2-3 anni insomma, però alla fine il gruppo che è rimasto, diciamo, e ha lavorato in improvvisazione, ripeto, perché non c'era copione, non abbiamo mai lavorato su copione, e in quel frangente poi io ho chiesto a un amico che è un documentarista palermitano, ma anche lui originario e residente a Favignana, di entrare con me in carcere e filmare i primi passi dentro proprio il lavoro dell'Odissea, e così è stato, per cui Gaspare Pellegrino, che è co-regista di questo lavoro, mi ha guardato e noi ci siamo fatti guardare, e senza metterci d'accordo tutto quello che succede là dentro è un'epifania, è stato un episodio, niente di calcolato, veramente apertura. Quanti sono stati i detenuti coinvolti? Ma nell'arco degli anni posso dirti che abbiamo superato la ventina di soggetti, di persone, perché poi sai, dovendo cambiare magari sede oppure qualcuno usciva, e poi è stata un'odissea perché era un continuo. Immagino. La burocrazia era il nostro Poseidone che ci ostacolava regolarmente, ma noi abbiamo veramente buttato il cuore oltre e siamo riusciti a realizzare poi uno spettacolo all'esterno, quindi i ragazzi sono usciti con me, hanno performato di fronte a un pubblico di turisti estivi e di popolazione locale questa Odissea che ha commosso e divertito molto. Però quello che abbiamo fatto noi è un lavoro sul momento in cui queste persone entravano in contatto con quella storia e capivano che cosa avevano fatto fino ad allora, perché loro non sapevano dove mi stavo portando, ero un capitano che non dava informazioni e quindi erano un poco, si chiedevano dove stiamo andando e questo è un po', e io ho cercato di portarli a guardarsi dentro e a dialogare con me, a giocare soprattutto, sì, gioco è lo spunto. Senti, invece dove sta andando il documentario? Ma guarda, il documentario continua la sua odissea, perché è molto difficile, poi sai, se ne è stato fatto di tanto di lavoro in carcere. Io credo che il nostro lavoro, quello mio di Gaspare, sia un po' particolare, perché investe molto nell'emozione che dà la musica, e soprattutto è un concetto dove non c'è elargimento, ma c'è soltanto da percepire, no? L'emozione e l'intensità di quei volti e di quelle, di quel gioco che avveniva, no? Quindi è un concetto più che un qualcosa di antropologico, o gli spieghiamo o gli facciamo guarire, no? C'è sta roba qua che a me è tutta in siciliano, dice fuffa, non è cosa, niente, non è niente. Mentre il concetto è che per noi era importante, era di me si sono fidati, io mi sono fidata di loro, e abbiamo passato del tempo bellissimo insieme. Quindi al momento Nuddu è stato un'installazione presentata a un'installazione video presentata a Gibellina durante la rassegna delle Orestiadi, no? Estiva, e poi è ancora su, diciamo, dentro lo stabilimento, la ex tonnara dello stabilimento Florio, che è una realtà museale molto bella a Favignana, ed è una, c'è cioè una stanza di vita alla proiezione di questo documentario. Quindi va un looping così. Ok, e invece i riferimenti web per saperne di più? E guarda, questo dovresti chiedere a Gaspari. No, c'è sicuramente la pagina Facebook del, proprio del documentario Nuddu. No, non c'è. No? Non c'è, perché io, sai, sono molto, vivo in un'altra dimensione, sinceramente. Però quello che desidererei che succedesse a Nuddu è riuscire a far interessare un festival di peso, importanza reale, nel senso che dia spazio a questa volontà di fare anche le cose in una maniera diversa. È stato prodotto con zero, è veramente uno sforzo produttivo fatto di valore e di intento, e questo vorrei che portasse a poi a pubblicizzarlo e venderlo possibilmente su canali tematici, soprattutto di arte, perché è un oggetto d'arte più che è una poesia sì. Fatta a molti. Non abbiamo una pagina, però abbiamo volontà di proseguire questo cammino. Bene, allora magari ci sentiamo per le prossime tappe. Guarda, non vedo l'ora di raccontartele, perché guarda, stiamo tornando verso Itaca, ma siamo pronti a partire per le colonne d'Ercole. Perfetto. Stefania, un abbraccio e a presto. Grazie infinite, buon lavoro, visionari. Ciao. Stefania Orso Lagarello, co-regista del documentario Nuddu. Adele Dell'Erario per parlare di Castello Errante, prima residenza internazionale del cinema a Montenero Sabino, provincia di Rieti, fino al 15 ottobre, ma anche in zone limitrofe. Adele, benvenuta. Grazie di avermi ospitato nella vostra diretta, grazie. Ti sei fermata col furgone? No, ancora no, ci sto provando, però rischio veramente di paralizzare il traffico già abbondantemente paralizzato di norma a Roma. Ci provo. Ok. Se mi dice bene, intanto cominciamo così. Ok, allora mi avevi segnalato questo Castello Errante, allora parlacene un po'. Castello Errante è in super sintesi, è la prima residenza cinematografica internazionale, quindi una residenza del cinema. Abbiamo un po' ripreso il format delle residenze artistiche oppure anche teatrali, che vediamo appunto nel teatro oppure nelle arti visive, figurative, più, diciamo, che vediamo più spesso. L'abbiamo un po' ripreso e adattato, in qualche modo reinterpretato, rivisitato in chiave cinematografica. Quindi questa residenza in soldoni consiste proprio in una ospitalità di ragazzi, e quindi di una piccola troupe internazionale, ragazzi che provengono in questo caso dal Latino America. Okay. e dall'Italia, e da vari paesi dell'Italia e dal Latino America. E niente, loro risiederanno ogni anno, cioè non sempre gli stessi chiaramente, ogni anno in un borgo dell'Italia. Quindi in pratica sono coinvolti i borghi dell'Italia, soprattutto i castelli, e da qui Castello Errante, che abbiamo rubato da Miyazaki, Parlavi di castelli romani e del castello di Miyazaki. Esatto, siamo rimasti lì e poi è arrivata una galleria. E quindi Castello Errante, perché il progetto viaggerà in vari castelli ogni anno, in un castello dell'Italia e quindi in un borgo dell'Italia. Il rapporto con il territorio per noi è fondamentale, quindi cinema e territorio, e poi perché viaggerà anche metaforicamente attraverso tutti i paesi che ospita. Quest'anno abbiamo lavorato e fidelizzato un rapporto con l'America Latina, e con il coinvolgimento dell'Istituto Italo-Latinoamericano e di 7 ambasciate abbiamo appena fatto una conferenza stampa presso l'ILA, nella quale appunto tutti i ragazzi in residenza che sono appena arrivati in Italia hanno avuto modo di conoscere i loro ambasciatori, addetti alla cultura delle ambasciate, con i quali abbiamo lavorato in questi mesi, con le quali abbiamo lavorato in questi mesi, e con loro abbiamo creato quindi un rapporto diretto. Le scuole, le ambasciate hanno selezionato delle scuole di cinematografia nazionali del proprio paese, e queste scuole hanno a loro volta individuato una figura all'interno della propria scuola, che fosse in questo caso quest'anno il regista per l'Argentina, per il Cile il direttore della fotografia, il Nicaragua ha selezionato il cameraman, operatore macchina, il fonico invece viene dal Guatemala. Quindi ogni paese ha in pratica individuato un ragazzo, una scuola e quindi poi un ragazzo, e sono partiti in residenza per appunto venire in Italia a fare residenza e realizzare con altrettanti ragazzi italiani un film. Quindi costituiscono una troupe internazionale, non si conoscono, si conoscono stavolta, quindi si conoscono in questa occasione per la prima volta, e devono appunto lavorare ad un piccolo film di cui hanno una sceneggiatura in spagnolo, tradotta e studiata comunque nei mesi scorsi, quindi un piccolo confronto c'è già stato, uno studio c'è già stato, e adesso si mettono all'opera. Quindi oggi c'è stata la conferenza stampa, da adesso parte la residenza con tutta una serie di appuntamenti che andranno ad arricchire questo mese di lavoro. Allora, fino al 15 ottobre Montenero Sabino, e poi quali altri luoghi? Montenero Sabino e poi Casa Prota e poi Torricella, Orvinio, che ha un altro castello bellissimo, Rieti, l'Abbazia di Farfa. I ragazzi hanno a disposizione un ventaglio di location che possono usare, per questo abbiamo collaborato a stretto giro con la Film Commission, che è parte e patrocina l'evento, e loro hanno appunto tutte queste location da conoscere, da individuare, da esplorare, quindi escursioni, gite nel territorio, rapporti molto stretti con le comunità che ci ospitano e che ci aiutano anche nella realizzazione del progetto, e dopodiché appunto sceglieranno quali delle location che avranno avuto modo di vedere durante questi sopralluoghi utilizzare, e più console chiaramente utilizzare per la realizzazione del film. Queste sono location appunto che fanno parte della Sabina, e chiaramente c'è un ponte anche con Roma, importantissimo perché per il cinema non può che essere così, con il centro sperimentale, quindi con la scuola importante, una delle scuole più importanti probabilmente del cinema che c'è qui a Roma, quindi abbiamo dei tutor e dei docenti del centro sperimentale che seguiranno i ragazzi in alcune fasi, e poi l'Accademia Griffith, quindi abbiamo i ragazzi che vengono dall'Accademia di Cinema e Televisione Griffith, perché ogni scuola a sua volta ha selezionato dei ragazzi che poi partecipano alla residenza. Il ponte con Roma quindi avviene attraverso questo lavoro di collaborazione con docenti universitari e professionisti. Una cosa volevo dire, Federico, importantissima: i ragazzi appunto vengono seguiti, quindi c'è un tutoraggio periodico, a seconda appunto degli ambiti di pertinenza, quindi c'è un tutor per la preproduzione, c'è un tutor per la regia, avremo per esempio Mimmo Calopresti che seguirà i ragazzi dal punto di vista registico e potrà dare loro dei contributi. Avremo un tutor per la colonna sonora, uno per il direttore della fotografia, insomma diversi professionisti del settore o docenti che a rotazione verranno ospitati a Montenero e potranno confrontarsi con la troupe per vedere l'avanzamento dei lavori o per poter dare un loro contributo, una mano ai ragazzi. Allora, in chiusura, Adele, ci dici i riferimenti web per seguire il progetto, e poi quanti artisti e artiste sono coinvolti? Sì, sono coinvolti all'incirca 20-21 artisti, okay. Alcuni sono in rotazione, quindi con un formula, diciamo, Tetris. Abbiamo incastrato le varie residenze a seconda appunto delle fasi di lavorazione, quindi chi va e chi viene. Permanenza fissa sono sempre 14 persone, tra cui abbiamo appunto 9 ragazzi che provengono dall'America Latina: Argentina, Cile, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perù, Guatemala. E poi ci sono questi. E poi volevo anche ricordare una cosa che adesso mi è venuta in mente parlando: due convegni, diciamo due incontri importanti. Uno è il 28 di settembre. Il 28 settembre ci sarà un convegno proprio nel Castello Orsini di Montenero Sabino, che è molto bello, molto caratteristico dell'Ottocento, non del 1800, proprio dell'Ottocento. All'interno del castello, quindi un convegno su cinema, territorio e turismo creativo, proprio per entrare ancora più nel vivo di questo rapporto. Poi ci sarà il 30 settembre e il 14 ottobre, sono due eventi che vedono l'incontro tra cinema e cibo, e soprattutto tra la cultura enogastronomica italiana con quella del Latino America. Quindi ci saranno delle degustazioni di piatti dell'America Latina, delle degustazioni di piatti del Reatino, con lo chef Elia Grillotti, che è uno dei più importanti chef che abbiamo qui in Italia, che seguirà i ragazzi dell'America Latina, insegnerà loro a fare la pasta a mano, per esempio, con il coinvolgimento dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Amatrice. Quindi i ragazzi dell'Alberghiero di Amatrice, che abbiamo voluto coinvolgere, insegneranno ai ragazzi dell'America Latina anche, insomma, alcuni aspetti, alcune caratteristiche culinarie della nostra terra, o comunque della terra che ci ospita, ecco. E questi sono due appuntamenti, però su Facebook come Castello Errante, Residenza Internazionale del Cinema, ci trovate subito, quindi c'è una pagina che viene sempre aggiornata. Adesso stanno pubblicando i ritratti di tutti i protagonisti della residenza e chiaramente anche le news e i partner dell'evento. Quindi cercate di essere coincisa, spero di... Hai detto un sacco di cose. Adele, io ti abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, grazie a te Federico, buon lavoro e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ciao. Adele Dell'Erario su Castello Errante, prima residenza internazionale del cinema a Montenero Sabino in provincia di Rieti, ma anche in altri luoghi, fino al 15 ottobre. In collegamento con Marta Bencic per parlare della nona edizione del Some Prefer Cake, il Bologna Lesbian Film Festival, da oggi fino al 24 settembre, tutto il fine settimana. Marta, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, ciao a tutte e a tutti. Allora, è un festival che seguiamo da sempre, però ricordiamo di cosa si tratta, ce lo racconti tu? Certo, Some Prefer Cake è il festival di cinema lesbico di Bologna, è l'unico attualmente in Italia e siamo alla nostra nona edizione. Abbiamo avuto 8 edizioni, poi 2 anni di pausa perché la creatrice del festival e direttrice artistica Luchi Massa si è ammalata ed è mancata l'anno scorso, e quindi ci siamo fermate, ci siamo curate di lei e il festival in quel momento non aveva senso farlo, e quest'anno si riparte con la nona edizione. Tra l'altro Luchi è sempre stata nostra referente fissa per parlare del festival. E che caratteristiche avrà questa edizione? Quest'anno è dedicato a lei, è dedicato a lei per celebrarla, ma anche per continuare come faceva lei, per cui abbiamo omaggi a lei sia all'inaugurazione con Marzia Stano, una che porterà la sua musica, Paola Cavallin che leggerà un testo che ha scritto su Luchi. Paola è attrice, fa commedia ha conosciuto Luchi negli anni 80. E poi avremo un omaggio, una tavola rotonda alle 4 di sabato, un ricordo politico di Luchi che vogliamo che sia vivo, cioè abbiamo voluto non fare una cosa celebratoria ma proprio bella viva, prendere compagne e compagni di tante estrazioni con cui lei ha lavorato, perché lei aveva questa caratteristica di avere un'identità molto, molto forte, le era chiarissimo chi era, e però sapeva intersecarsi con tutti quanti, e quindi questo ricordo politico è proprio un invito, no? A unirci e parlare ciascuno dal suo punto di vista, però parlandosi. E poi c'è l'omaggio a Lucchi con i suoi corti alle 18, sempre sabato, e perché Lucchi era anche regista. E poi ci saranno delle poesie e la musica con le Female Trouble. Di Lucchi ci sono anche due mostre fotografiche, sì, nel basement del cinema, perché con l'associazione Lucchi Massa che abbiamo creato per portare avanti il festival e per dedicarci a lei, vogliamo creare un archivio, e questo è un po' il primo passo per creare un archivio del suo materiale, sia le cose che ha fatto lei sia quelle che ha raccolto negli anni. Per quanto riguarda i lavori filmati, quanti saranno quelli presentati in questa edizione? Sono circa 15. Abbiamo tanti documentari e dei narrativi. In particolare a me viene da parlare dei documentari, perché i documentari sono di nuovo un omaggio a Lucchi quest'anno, nel senso che nella scelta mi sono trovata davanti a tanti titoli che avevano storie di lesbiche forti e che hanno creato comunità, che hanno rotto i paradigmi, messo in discussione gli stereotipi, e quindi c'è proprio questo filo conduttore che in qualche modo proprio ci riporta lei. L'inaugurazione stasera abbiamo Jules Ketchwan, che è la storia del locale, del mitico locale a Los Angeles, creato da Jules Tice Williams per la comunità gay nera e lesbica, e poi ha accolto veramente tutti. E questo locale ha tenuto per 42 anni, mentre l'età media dei locali era un paio d'anni, e Jules mi ricorda tantissimo Lucchi, questa caparbietà, no? La testardaggine di andare avanti a ogni costo, ecco. Ecco, proprio a proposito dei documentari, cosa esprime oggi l'identità lesbica? Tanta ricerca, secondo me, di storia per capire dove andiamo, perché in tutti, sia anche in Chavela, che parla di Chavela Vargas, si capisce che c'è un momento di passaggio in qualche modo, no? La generazione che ha spezzato il closet e ha creato, no, la cultura lesbica, quella visibile, sta passando in qualche modo il testimone, e quindi c'è questo bisogno di raccontare, di vedere le loro storie, però farle anche proprie, no? Cioè, sì, trovare modo di andare avanti. Per esempio Donna Haraway, il documentario su Donna Haraway parla di come la fantascienza e la narrazione di storie possono, di storie davvero diverse. Lei dice le storie più deboli, no? Far diventare forti le storie deboli e più deboli le storie forti, proprio in risposta a quello che ci succede anche intorno. Secondo me è molto interessante questo fatto di che comunque le storie delle lesbiche si incastrano sempre con la socialità trasversale, proprio anche Wonder to Wonder, che è un lavoro nuovo spagnolo, è stata invitata una regista, sì, Julia Chang, dalla comunità di Madrid, quindi finanziamento è del comune di Madrid, la collaborazione con tutti i performer gender di ogni tipo, gender queer, lesbiche, eccetera. E hanno fatto un lavoro che tocca tutto, tocca la questione dei migranti, la questione femminile, lesbica, la violenza omotransfobica, i diritti sessuali delle persone disabili, la povertà, qualsiasi cosa davvero ci tocca da tutti i lati. Secondo me è proprio il bello della comunità, no? Che siamo aperti e impegnarci ad essere aperti a guardare, capire cosa ci succede intorno, no? Sì, sì, sì, sì, sì. A questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per sapere di più sulla programmazione? Certo, dunque il sito è www.sanprefercakefestival.com. Su Facebook ci trovate come Sanpre Fair Cake Festival, tutto lungo. Invece Instagram è Sanpre Fair Cake e l'hashtag quest'anno è Sanpre Fair Cake. Benissimo. Allora, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci. Grazie presto. Grazie mille, un abbraccio a voi. Ciao Marta, ciao. Ti aspettiamo, ciao ciao. Marta Bencic per la nona edizione del Sanpre Fair Cake Bologna Lesbian Film Festival dal 21 al 24 di settembre. Questa è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, e poi la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures sulla distribuzione del film Glory, Non c'è tempo per gli onesti, di Cristina Grozeva e Petar Valkanov, in uscita in sala oggi giovedì 21 settembre. Dario, ben ritrovato su queste frequenze. Buongiorno a tutti. Allora, un film in uscita oggi, se ne sente parlare bene, raccontaci un po' di cosa si tratta. Benissimo. Il film di oggi, Glory, è effettivamente il secondo di una trilogia di questa coppia di autori bulgari, del quale Wonder Pictures ha la estrema fortuna di averli in qualche modo scoperti e conosciuti e averli già portati in Italia. Siamo al secondo loro film di una trilogia, il primo fu The Lesson, forse qualcuno se lo ricorda, The Lesson, Scuola di Vita. E sono film che vengono da una composizione molto importante di cast e di squadra a livello in Bulgaria, ed è la stessa squadra che continua a filmare ininterrottamente. Se il primo The Lesson di due anni fa nacque grazie a un intuito, dopo aver letto un titolo di un giornale, anche questo secondo film, Glory, Non c'è tempo per gli onesti, nasce da uno spunto di cronaca. Se con The Lesson, il primo film, l'idea venne perché il regista lesse sui giornali, ecco, questo titolo, un insegnante rapina una banca con una pistola giocattolo. Da lì partì l'idea e nacque un film strepitoso, girato con pochissimi soldi e nessun finanziamento. Questa seconda opera invece fa un passo ulteriore, è stata proiettata in anteprima mondiale al Festival di Locarno e qua in Italia al Festival di Trieste dello scorso anno, e qua l'idea lo stesso parte da un articolo di giornale che recita così: un ferroviere, un impiegato delle ferrovie bulgare, porta alla polizia una borsa con 1.000.000 lev, la moneta russa, e viene ricompensato dal primo ministro con un orologio falso. Questo è lo spunto iniziale. Vi ho già raccontato che ci sarà un ulteriore film, speriamo di essere di nuovo con loro, ma I Wonder Pictures spera ed è sicuro di essere di nuovo con loro con quest'altro film che è in fase di scrittura. Ma intanto su Glory è un piccolo capolavoro, con un'uscita saremo in 20 sale da oggi in tutta Italia. Io in questo momento, piccola digressione, sono a Roma in un ristorante, sono in accompagnamento con la protagonista del film, Margita Gosceva. Stasera avremo una grande anteprima e se ne avete piacere attendetemi in linea giusto un solo secondo, sì, e vi passo una persona. Sì. Bene, il bello della diretta. Non... Ciao a tutti. Ciao. Venite stasera al cinema Giulio Cesare, vi aspettiamo. Baci. Asa Margita. Benissimo. A che ora? Saremo al Giulio Cesare alle 20:20. Benissimo, benissimo. Beh, mi sa che ci hai detto tutto, Dario. Ho detto che siamo a Firenze, è stata una situazione strepitosa dall'altro ieri al Cinema Anteo di Milano. Questa sera siamo a Roma, ma il Sino Tavere è anche a Napia, a Treviso, poi in tutta Italia. E in particolare a Roma vi aspettiamo questa sera, come che ti sento male. Ancora? Ecco, adesso ti sto riprendendo. Dario, comunque chiaramente per saperne di più anche sulle sale rimandiamo al sito internet e la pagina Facebook. Esatto. I Wonder Pictures. Benissimo. Ci trovate, seguiteci. Grazie a tutti, grazie a Radio Onda Rossa. Dario, un abbraccio e a presto. A presto. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci, ciao. Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures sulla distribuzione del film Glory, Non c'è tempo per gli onesti, di Cristina Grozeva e Petar Valkanov, in uscita in sala oggi giovedì 21 settembre. E ritroviamo Luisella Chiribini per parlare della 10ª edizione del Cyborg Film Festival all'Astra Cinema Teatro a San Giustino, provincia di Perugia, dal venerdì 22 a domenica 24 settembre. Luisella, ben ritrovata. Ben trovato, grazie ancora e saluto tutto per Radio Onda Rossa. Il festival quest'anno compie 10 anni e siamo in 3 regioni. Iniziamo sì domani in Umbria, poi tocchiamo la Toscana il 29 settembre e chiudiamo in Liguria il 13, 14, 15 ottobre. Infatti vede anche il patrocinio dell'Istituto Italiano di Tecnologia che ci ospiterà nella giornata del 13 ottobre. 3 regioni, quindi 7 giorni, 147 opere tra il concorso di fantascienza e animazione e alcune opere che verranno proiettate nella maratona del 29 settembre in Toscana, che sono del circuito off, quindi horror e altri generi. Senti, allora, per chi ci ascolta e anche dato il fatto che ci sentiamo un po' in maniera intermittente, raccontiamo come è nato e cosa rappresenta il Cyborg. Oh, il Cyborg è nato con la volontà di unire proprio la scienza, la tecnologia e quindi fattore guida per me la fantascienza, e abbiamo continuato per questa strada. Cosa rappresenta? Per me è sempre una bellissima esperienza, anche perché conferma tutti gli anni un'internazionalità, e quindi vuol dire che c'è interesse, c'è fascinazione sull'indagine sia del divertimento puro, ma anche che ormai la fantascienza è realtà. Tutto ciò che anni fa potevamo pensare che sarebbe stato bello se arrivasse, sta arrivando, c'è già. L'Istituto Italiano in effetti confermerà anche questa cosa dei robot e tutte le contaminazioni che ci sono state. Sì, sì, sì. Senti, quante opere questa edizione? Ce ne abbiamo 147, di cui in concorso fa conto ce ne saranno un 120 circa, gli altri sono off nel senso è un circuito di documentari o altri generi proprio che non hanno a che fare con le sezioni in concorso, che sono fantascienza e animazione. Senti, in giuria abbiamo sì. la scrittrice e sceneggiatrice Francesca Bertuzzi con la sorella che è anche regista Valentina, che sono di Roma, poi Tommaso Ragnisco è un artista e designer lo stesso di Roma, che anche lui lavora molto spesso sull'ambiente del cinema. Sì. Senti, Luisella, che panoramica offre la fantascienza oggi? Secondo me proprio una soglia, come dire, personalmente ritengo di avvicinarsi e non averne paura, non è quella semplicemente degli alieni che arrivano e distruggono, ma può essere veramente una forma di comunicazione in più, magari imparare proprio a comunicare con la diversità, e soprattutto nell'ambito, io parlo tecnologicamente parlando, di sostegno, di aiuto, e quindi non di averne in qualche modo paura. Personalmente la mia impronta è quella, poi ci sono grandissimi dibattiti su ciò, quindi ognuno sta dalla parte che vuole stare, la legge un po' come vuole. Per me la fantascienza è un grande contenitore che collega molte cose, veramente dalla scienza all'immaginazione e adesso anche alla realtà. E il suo rapporto con le nuove tecnologie? Personalmente con la fantascienza quello che si vedeva, tra virgolette, per gli amanti dei vecchi telefilm da Star Trek, sono quelli che adesso sono ormai cellulari, da un Philip Dick, da Minority Report, esistono già. Quello che la fantascienza deve andare molto più veloce nel livello immaginifico, perché la realtà gli sta veramente col fiato sul collo. Senti, allora Secondo me, certo. Io volevo sentire la tua. Senti, Luisella, tutti i riferimenti su internet per il cyborg? Sì, ci potete guardare su Facebook, sul profilo Luisella Chiribini, o l'evento Cyborg Film Festival 2017, o sito www.cyborgproduzioni.org. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Lunga vita al lupo, grazie mille. Ciao, Radio Onda Rossa. Ciao, Luisella. Ciao. Luisella Chiribini, direttrice della 10ª edizione del Cyborg Film Festival all'Astra Cinema Teatro San Giustino in provincia di Perugia, dal 22 al 24 settembre, ma poi, come abbiamo sentito, si sposterà anche in altri luoghi. Ritroviamo Massimiliano Mazzotta, direttore della 4ª edizione del Life After Oil Film Festival a Santa Teresa Gallura, provincia di Sassari in Sardegna, dal 22 al 24 di settembre. Massimiliano, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Un festival che seguiamo con attenzione, però raccontalo a chi non lo conoscesse. Life After Oil, come sappiamo, nasce dopo i due film Oil e Oil Secondo Tempo sulla Saras dei Moratti in Sardegna, in provincia di Cagliari. Però diciamo, parliamo del festival. Questa 4ª edizione abbiamo ricevuto 530 film, quindi un salto, diciamo, il doppio dei film rispetto all'edizione precedente. Saranno in totale 70 film rispetto ai 25 dello scorso anno, quindi ci saranno 49 film in concorso e 21 fuori concorso. Nelle sessioni fuori concorso abbiamo anche il premio Lux del Parlamento Europeo, abbiamo scelto tra i tre finalisti del 2016 La mia vita da zucchina, che verrà presentato al Cineteatro Nelson Mandela alle 12 del sabato 23. Volevo ringraziare il Comune di Santa Teresa, tutta l'amministrazione, per il lavoro che è stato fatto, soprattutto con le scuole, dove alla mattina del 22 e del 23 avremo presenti sempre 100 studenti tra scuole superiori, scuole medie e scuole elementari. Massimiliano, quali sono stati i criteri di scelta di quest'ampia rosa di lavori che presentate? Ma nel comitato di selezione eravamo abbastanza, diciamo, diversi tra di noi. C'era Charles Thompson dall'India, gente da Milano, tre persone dalla Sardegna, quindi ognuno ha dato il suo contributo, e ringraziare anche tutto lo staff che si sta consolidando e che spero si possa, diciamo, continuare su questa linea, perché credo il mattone per mattone, a noi non piace fare le cose, diciamo, tra virgolette, diciamo, in grande, però ci proviamo. Quest'anno facciamo per la prima volta proiezioni in tre luoghi diversi e faremo anche un laboratorio per bambini alle 10:30 della mattina del 24 di fronte alla piazza del comune, dove i bambini di Santa Teresa, ma anche gli adulti, potranno, diciamo, tingere i tessuti usando piante naturali senza usare, diciamo, combustibili fossili o derivati dal petrolio. Ecco, proprio a partire dal titolo di questa kermesse, la tematica ambientale è quella, diciamo, centrale, la seguite attentamente. Assolutamente, nei 6 documentari, i lungometraggi che abbiamo scelto, che sono After the Spill, che è, diciamo, John Bowermaster è tornato dopo 5 anni, dopo il disastro che c'è stato in Messico, e non ci sono, è sparita la foresta di mangrovie, è sparito tutto il mango, diciamo, è una zona massacrata quella, poi abbiamo visto anche adesso con gli hurricane che ci sono stati. Poi abbiamo Dead Donkeys Fear No Hyenas, in anteprima italiana, che sul land grabbing in Etiopia, un paese in carestia, addirittura siamo arrivati ad esportare riso basmati per i ricchi che, appunto, espropriano terre che sono foreste ancestrali, e cui dovrebbero probabilmente lasciare così come, appunto, era forse più sostenibile la cattura di un animale a mani nude piuttosto che usare un fucile. Poi abbiamo Safari Pain to Kill, che è Olivia Mokeyeschi, che era chief editor anche di Arthur Bertrand, che gli americani fanno una fiera in Texas dove, con tanto di catalogo, 30.000-40.000, sparano leoni, zebre, e quindi ci sono, diciamo, fanno delle spedizioni dove vanno solo ed esclusivamente per il gusto di ammazzare un animale. E poi abbiamo Friday Night, The Real Price of Shipping, il solito dilemma dell'etichetta made in Bangladesh, che però questa etichetta, il cotone viene fatto negli Stati Uniti, viene poi esportato e, diciamo, lavorato in India, processato in Cina, il bottone fatto con plastica riciclata dall'Europa, e poi viene assemblato con la scritta made in Bangladesh, quindi 48.000 chilometri per il costo di un euro per la maglietta, quindi c'è 300, con 300 euro porti diverse tonnellate dagli Stati Uniti alla Cina, quindi il 90% di quello che noi possediamo arriva attraverso le navi. E poi c'è Tawei, che sarà in anteprima nazionale, anche anteprima rispetto ai cinema inglesi. Bruce Perry, giornalista di BBC da 30 anni, è ritornato a fare un film facendoci vedere le popolazioni ancora, diciamo, che vivono dove la sostenibilità, appunto, è al centro del film, dove si vedono ancora foreste intoccate. E dopodiché c'è una sezione animazioni dove ci sono, diciamo, parliamo anche della giuria, dove c'è, in giuria c'è Matilde De Feo, o nella giuria animazioni Peter Marcias e Simone Massi, mentre per la giuria cortometraggi Fabrizio Cassinelli, Laura Piras e Luciano Burderi, e la giuria internazionale con Marianne Borgo, che arriva da Parigi, Francesca Cironi, che è giornalista dell'Espresso, e il direttore artistico Sumendra Arsh del Rajasthan International Film Festival. E poi per la prima volta quest'anno abbiamo anche la sezione diritti umani, dove in giuria abbiamo Giuseppe Cristaldi e Maria Elena Delia, che è del board della Fondazione Arrigoni. Massimiliano, anche in giuria, sì. E c'è una sezione della World Panorama dove votano i ragazzi, i 5 ragazzi di Santa Teresa Gallura, dove assieme a 2 di loro, Joyce, Elena Saba e Lisa Muro, abbiamo costruito un film sull'area marina protetta di Santa Teresa, che verrà presentato domani assieme all'amministrazione e ai ragazzi di Santa Teresa. Ecco, ti volevo dire, Massimiliano, la domanda mi viene automatica: com'è vissuta in Sardegna la questione ambientale? Beh, la Sardegna, diciamo che ha 445.000 ettari di territorio compromesso tra basi militari, petrolchimica, e credo che, diciamo, bisogna avere un po' più attenzione. Noi facciamo un festival di informazione, più che altro, in modo che si è più coscienti e magari si inizi a pensare ad una vera vita disponibile e ad una vera vita dopo il petrolio. Faccio un esempio di uno dei film, The Small Fuel That Can, Josué Oropeza verrà da Los Angeles, il metanolo lo conosciamo già da tempo, tutte le macchine di racing, l'Indianapolis, la famosa Indianapolis, il fuel, quindi il carburante, è metanolo. Il metanolo sarà, diciamo, una transizione, credo che sarà tutto elettrico dopo, però il metanolo non inquina quanto inquina il diesel. Nel film ci fanno vedere gli scienziati quando bruciano una fiamma di metanolo, attenti, riesci a vedere la fiamma se non li metti dentro una foglia, lui brucia una foglia per farci vedere la fiamma, e poi brucia il diesel che ha questa fiamma gialla con quello che sappiamo che butta fuori il diesel, il particolato, quella fiamma rossa con il nero che viene fuori. C'è anche un'altra cosa di cui vorrei parlare con te, ed è l'Arsenicem, un tuo documentario che è in crowdfunding. Sì, Arsenicem è la catastrofe continuata, dove grazie al team del professor Biggeri, il film è su Manfredonia, mi è stato chiesto perché nel 2014 a Manfredonia è successo un incidente il 26 settembre del 76 dove scoppiò una colonna di arsenico. Che non se n'è mai parlato. Grazie anche a Manfredonia e dopo Seveso, che è nata la direttiva europea sugli incidenti rilevanti, nel 2014 degli operai avevano iniziato le bonifiche, ma dopo una settimana hanno fatto gli esami e si sono ritrovati arsenico nelle urine, quindi hanno bloccato tutto. Il professor Portaluri ha chiesto all'amministrazione di Manfredonia di fare degli esami, e per la prima volta rispetto per esempio a San Rocco, dove non c'è stato un esame epidemiologico partecipativo, a Manfredonia per la prima volta le donne, gli uomini e chi voleva partecipare al processo poteva per 2 anni seguire questo processo partecipativo di studio epidemiologico, cioè entrare proprio nel problema assieme agli scienziati e insieme a tutti gli amministratori. Ed è nato poi un coordinamento a Manfredonia di delle donne, che poi le Bianca Lancia, che hanno vinto contro l'Enichem a Strasburgo tantissimi anni fa, proprio per il, soprattutto per il diritto delle persone di essere risarcite rispetto a dei danni. Ricordiamo Lovecchio, appunto Nicola Lovecchio, che era un operaio dell'Enichem, che lavorava negli insaccati, che sono il peggio, gli impianti peggiori dove uno può lavorare, dove viene insaccato il prodotto finale. Dopo gli hanno nascosto per 2 anni che aveva un tumore al polmone, dopodiché se ne è accorto, ha fatto fare l'esame a tutto il resto dei suoi amici operai e avevano tutti un cancro al polmone. Dopo è nato un processo contro l'Enichem, che poi hanno c'è stato un risarcimento rispetto a tanti operai, ma la famiglia Lovecchio ha continuato sempre sulla stessa linea, andando contro l'Enichem e contro chi produce quelle sostanze che appunto inquinano. Magari l'impianto non è grande, ma a livello di inquinamento magari inquinano di più anche di altri che magari sono più estesi come territorio. Il crowdfunding è partito e tra l'altro mi è arrivata l'altro giorno la comunicazione, anche Medicina Democratica parteciperà con un contributo per la realizzazione del film, che vuole essere anche un film condiviso, anche perché non si può mai relegare in una sola situazione, ma deve essere estesa. Gli impianti Enichem sono in tutta Italia, gli impianti più o meno dal 1850 oggi, da quando poi è nata la chimica, sono più o meno 33 i siti inquinati. E quindi lavorare anche su quello, infatti il crowdfunding è aperto anche a filmmaker che magari vivono nei siti di interesse nazionale, in Sardegna per esempio Porto Torres, Porto Scuso, Porto Vesme, possono mandarci delle clip di 1 minuto, 2 minuti da inserire anche nel finale del film, dove chiediamo una bonifica condivisa su tutti i territori inquinati in Italia. Bene, Massimiliano, i riferimenti ce li hai dati, e le ripetiamo le date: dal 22 al 24 settembre Santa Teresa Gallura, provincia di Sassari in Sardegna, quarta edizione del Life After Oil Film Festival. Un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie. Lifeafteroil.org, trovate programma, catalogo e press kit con tutta la documentazione. Grazie a voi. Abbraccio e a presto. Ciao. A presto. Massimiliano Mazzotta, direttore della quarta edizione di questo Life After Oil Film Festival. Con Fiammetta Girola per parlare della prima rassegna multidisciplinare A Shot in the Dark a Bergamo, da oggi fino al 24 settembre. Fiammetta, ben ritrovata. Ciao, ben ritrovato a te, ciao, ciao. Ciao. Allora, un nuovo progetto, si parla di giallo, in che termini? Allora, un po', diciamo, vabbè, se vogliamo dare una definizione di giallo è un po' difficile perché i confini sono molto labili, però noi volevamo un po' focalizzarci sul cinema di genere, perché che può essere giallo, può essere il thriller, può essere l'azione, il poliziottesco, tutto quello che vogliamo, però insomma siamo stati sempre un po' degli amanti di questo tipo di cinema, perché abbiamo fatto diverse rassegne sul noir in passato, abbiamo fatto il polar, abbiamo fatto anche una rassegna dedicata a Georges Simenon, a tutta il repertorio cinematografico tratto dai suoi romanzi, e proprio da lì parte questa idea di fare questa rassegna, un po' pensata partendo dal rapporto tra il testo letterario e invece il prodotto cinematografico. Noi la rassegna Georges Simenon l'abbiamo fatta nel 2003, sì. E all'epoca abbiamo conosciuto quello che è stato il più grande collezionista italiano di Simenon, anche studioso e conoscitore, che è stato Gianni Da Campo, è stato anche regista e scrittore ed è scomparso un paio di anni fa purtroppo, però lui all'epoca ci donò tutta la sua collezione dedicata a Simenon, e noi ne abbiamo fatto un fondo che teniamo custodito in archivi, nell'archivio della Fondazione Alaska qui a Bergamo, dove ci sono la sede dei nostri uffici, è aperto al pubblico, però volevamo trovare un modo per valorizzarlo, perché comunque venisse anche conosciuto in tutto il resto d'Italia, il primo archivio italiano sull'autore, ed è comunque un bene prezioso che va condiviso con tutti gli amanti del genere, della letteratura e del cinema. Mm-hmm. E quindi da qui è nata questa cosa. Non facciamo però solo film, ma cerchiamo anche di coinvolgere altre realtà che si occupano di cultura e che possono avere a che fare appunto con la letteratura gialla in generale, quindi librerie, abbiamo coinvolto anche una tornata associazione culturale, abbiamo fatto un premio per la miglior sceneggiatura di un cortometraggio di argomento giallo thriller, abbiamo poi anche il convegno sugli studi di critica cinematografica della Federazione Italiana Cineforum, proprio dedicato al giallo tra cinema, scrittura e fumetto, quindi sarà un po' un evento a tutto campo, ecco, tutto dedicato al genere. Bene, bene. A questo punto ti chiedo anche tutti i riferimenti per saperne sulla rete, per il programma, per i luoghi, per gli orari. Sì, sì, va bene. Innanzitutto diciamo che la rassegna cinematografica inizia questa sera, sì, all'Auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo, e con la proiezione del restauro di Blow Up di Antonioni, finché poi girerà in sala, verrà distribuito a cura della Cineteca di Bologna a partire da ottobre, dal mese prossimo. Quanti sono i lavori in rassegna? Sono 7 film. Sette film completamente diversi, anche come taglio, come autori, come periodo. È una rassegna interessante, ci sono anche diversi restauri. Oltre a Blow Up, volevo ricordare anche che domani sera ci sarà Il lungo addio di Altman in versione restaurata. Per tutte le informazioni sul nostro sito www.bergamofilmmeeting.it, e oppure direttamente anche al telefono 035 36 30 87. Bene, Fiammetta, un abbraccio e un in bocca al lupo, e ci sentiamo presto. Grazie mille, ciao. Fiammetta Girola, della prima rassegna multidisciplinare A Shot in the Dark a Bergamo dal 21 al 24 di settembre. Paolo. Paolo Minuto per parlare del documentario Il chirurgo ribelle di Eric Gandini, che sarà all'Apollo 11 qui a Roma da oggi fino al 26 di settembre. Paolo, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Ben ritrovati a tutti voi e grazie per avermi chiamato, in questo caso rappresentando Apollo 11, che è una realtà ben nota a Roma e che tra le altre cose fa anche attività cinematografica. In questo caso presentiamo questo film di Eric Gandini, ma stiamo programmando con successo anche La teoria svedese dell'amore, c'è un altro film di Eric Gandini, e con Eric Gandini il pubblico dell'Apollo potrà conversare domenica sera via Skype, quindi sarà questo grande incontro all'Apollo 11 via Skype alle 20:30, cioè al termine delle due proiezioni. Prego. Sì, sì, ecco, raccontiamo allora Il chirurgo ribelle, di cosa parla. Sì, intanto ricordo che Eric Gandini è un autore italo-svedese, sì, che è noto al pubblico italiano perché nel 2009 presentò alla Mostra del Cinema di Venezia il documentario Videocracy, in cui si parlava del potere mediatico, del potere delle televisioni, e tra i vari personaggi naturalmente spiccava quello di Silvio Berlusconi, ma c'era anche Lele Mora e altri personaggi. E questo perché lo dico? Perché come nella teoria svedese dell'amore, in cui lui individua dei personaggi, delle coppie, degli individui, per parlare della tendenza all'individualismo, seppure nella libertà della società svedese, anche in questo caso Chirurgo ribelle, perché il titolo esattamente è senza l'articolo, e questo dà maggior risalto alla ribellione tra virgolette che opera questo chirurgo, perché lui ha individuato, ha conosciuto per caso, come capita spesso ai documentaristi, questo personaggio molto singolare ma molto interessante, che per 30 anni ha fatto il chirurgo, ha svolto questa professione con ottimi risultati, immagino anche economici, e sottinteso questo nel film, ma comunque si capisce, in Svezia. Dopodiché ha deciso di dare una svolta alla sua vita, anche perché sposa una donna etiope, allora decide di recarsi in Etiopia e fare il chirurgo di fatto da missionario, anche se non lo fa con le caratteristiche che noi conosciamo, che sono più note almeno iconograficamente dei missionari, ma comunque lo fa con inventiva. Perché qual è la particolarità di questo chirurgo? A parte la scelta, naturalmente, e lui dice: se fossi rimasto in Svezia avrei tranquillamente comprato una seconda casa, avrei gestito la mia vita da pensionato, e naturalmente l'amore lo ha portato lì, intanto l'amore per una donna e poi l'amore per la professione. Ma lui fa una scelta innovativa, cioè la chirurgia nei paesi poveri, come sappiamo, è priva di strumenti, degli strumenti più avanzati tecnologicamente della chirurgia che conosciamo nel mondo cosiddetto occidentale. Ecco, lui lì si arrangia comprando gli strumenti più elementari, più poveri, al supermercato. Quindi un banale trapano diventa anche un trapano da sala operatoria. Anche per i punti di sutura, per tutto si arrangia con strumenti molto molto elementari, poveri e quindi molto economici e quindi reperibili anche in Etiopia, e di conseguenza uno può pensare sarebbero reperibili anche altrove, e ci riesce a farlo con successo, da medico evidentemente esperto e competente. E quindi il film racconta questo, ma racconta naturalmente anche un'anima, un pensiero, una coppia, la capacità di essere in modo originale altruista e aperto al mondo. Ecco, in fondo, per parafrasare una frase che va di moda nella politica di questi mesi, che a me non piace, ma che, se interpretata come la interpreta questo chirurgo, allora può avere anche un senso: aiutiamoli a casa loro. Ecco, questo è un modo davvero rivoluzionario e non un lavaggio di mani per disinteressarsi dei drammi di interi popoli che stanno lontani da noi geograficamente, ma è un modo per riuscire a cambiare anche un sistema, in fondo anche un sistema economico, perché naturalmente nessuno può raccomandare di essere operato con questi strumenti, però è anche vero che forse troppa tecnologia è meglio, ma non è indispensabile, cioè si possono salvare vite anche senza grandi sofisticazioni, e questo è un grande non messaggio, perché non è bello che ne finci sono messaggi come in una lettera o in una cartolina, ma un'idea, un pensiero messo in pratica, quindi un'utopia ma realizzata, e questo è molto interessante. Tra l'altro Gandini è anche un documentarista che ha molto il senso del, della sintesi comunicativa, dell'efficacia. Questo film, ad esempio, per il materiale che ha, narrativo che ha, dura 55 minuti, poco meno di un'ora. Ecco, quindi Eric riesce a trovare sempre il tempo giusto per raccontare le sue storie, e raccontare è giusto perché questo è comunque un documentario narrativo. È anche in parte descrittivo naturalmente, ma è un documentario narrativo come ce ne sono tanti, come ormai al cinema stiamo vedendo anche con successo. Questo è molto importante, che il documentario ormai si diffonda anche nelle sale cinematografiche, anche quelle un po' più commerciali, seppure nell'ambito dell'SE. E Apollo 11, come è noto, è la casa del documentario, quindi siamo contentissimi di poter ospitare queste, questi titoli di Eric. Paolo, che tu sappia, che tipo di distribuzione ha avuto in Italia questo Chirurgo Ribelle? Dunque, è distribuito da una casa indipendente che è la Bottanza Storica, sì, sì, sì. È la prima delle indipendenti, certo. Ecco, io stesso con Cine Caminterazione mi sono ispirato a loro. Loro sono una cooperativa di Bergamo, nata appunto negli anni Ottanta, e questo film in particolare ha avuto un'uscita nazionale a giugno, ha avuto molta diffusione nel centro nord Italia, soprattutto nel nord Italia, dall'Emilia Romagna in su, diciamo, ecco, per la precisione, e credo che l'uscita romana fosse un dovere anche di Apollo 11, e auguro a questo film una lunga vita. D'altronde questi film devono avere una lunga vita, e da giugno a oggi, in fondo, per un tipo di film come questo non è passato molto tempo. La stessa teoria dell'amore lo stiamo programmando adesso, ma è uscito ufficialmente nazionalmente un anno fa, quindi sì. Diciamo, la lunga vita di questi film è anche importante e giusta, insomma, ecco. Bene, allora Paolo, tutti i riferimenti chiaramente sono sulla pagina Facebook di Apollo 11. Di Apollo 11, sì, esatto. Apollo 11, sia scritto a numero che scritto a parole, ne abbiamo due, così non si può sbagliare, tutti i riferimenti, e così veniteci a trovare, leggete la programmazione e seguiteci, insomma, ecco, a Roma. Un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, un saluto a tutti voi. Ciao. Grazie. Paolo. Paolo Minuto sul documentario Il Chirurgo Ribelle di Eric Gandini all'Apollo 11 qui a Roma dal 21 al 26 di settembre, quindi da oggi. Ed è tutto per questa settimana per Visionari. Torniamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce Trasmissioni Visionari, trovate la scaletta e le informazioni della trasmissione, come anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.